c'è ne, più nessuno. Va bene così. Ok, avanti Robert. Chinetta, all'ortopedico Pinna. Cosa? Portare la vecchia macchinetta che avevo, quella nera, che avevo prima, siccome il motore non funziona più e mi hanno dato un'altra nuova. Ah, e quella cosa fare? Porto a loro e loro la spediscono in fabbrica a Milano. Ah, ho capito. Molto bene. Sai, guarda, a me facevo un mattino. No, non va bene. Un Carruccio facevamo con Roberto, vero Roberto? Tu guarda cosa lavoro con un Carruccio, l'ha visto con un Carruccio. Non è vero. Ma ci sei mai andato con la ricetta di Carruccio tu? No, non lo conosco neanche. È una macchinetta così, tipo quella con i cuscinetti, ti siedi e la fai andare in discesa senza motore. Con i cosi dorati. Con i cuscinetti, ehi. Di tanti anni fa, quando ero più ragazzina. Non cambia niente, guarda, a Cinere lo fanno, c'è un discesone grande, loro ci mettono lì e ci mettono a correre. Ad un piede. Seduto a quattro piedi. Ti ho visto, perché ci sono due cuscinetti avanti e due dietro. Lei ha queste sedie, praticamente c'è chi c'ha lo sterzo, oppure con la fune, una fune una parte e una fune all'altra, per il manubrio, come il cavallo. Cavallo, yes. Hai visto, mi sa che ce la facciamo Carruccio, andiamo a Cinere a correre. Ma dopo non l'ho visto, non li potessi fare, mi ho dato solo l'attico del 30, ma non l'ho visto fare. Ma non stanno ancora facendo, perché? Non trovo fare, non vengono ogni tanto in officina a chiedere, noi non ne abbiamo i cinesi che siamo carrozzieri, però vengono un sacco di volte tutti gli anni. Ti aspetta, ma l'ho visto una volta quella di Cinere, ma è allucinante, c'è un discesone micidiale. Qualche giorno si ammazza qualcuno lì, via del Trento già si può scendere. Cazzo, si può scendere? Sono un gruppo in macchina, non è solo a scendere. Ma non hanno freni. Sono tutti, non tirano, stanno delle robe in metallo, di legno, perché sono bloccati, si sta chiusi, non è che vale il freno. E ci vuole, per carità. Non è che ne avevo visto una volta lì a Cinere, che praticamente c'è la sistema frenante. Allora, quel sistema frenante dei coccardi, no? Con la pedirella, e praticamente schiacciava la pedirella e andava, e c'era una leva che andava a strisciare sopra i cuscinetti posteriori, come il freno del treno, no? E la bloccava, la tirava una decina di metri, però lo frenava bene. Oh, noi l'abbiamo fatto da ragazzino, da Radio Fatto 2, in quella piscina vicino a me, in La Wagner. Il crono stavamo una roba a buco in mezzo, un po' più legno. Così era questo. Ce n'erano fatti così, col buco in mezzo, e questo pezzo legno praticamente che strisciava sull'asfalto, no? Si consumava, però già lo freni. E invece ce n'era altro, c'era un sistema frenante con due pacchetti di legno che praticamente andavano a fermare il cuscinetto di dietro. E quindi si fermava. Se va a parlare con la bocca, va, la guarduccia. Se veniva lui era un coso, una vasca da bagno. Una vasca da bagno, normale. Con gli assi forati in ferro, chi c'era tutta in ferro. Le marco il primo premio perché era il più bello. Una vasca da bagno, con un usato di vento, fatti fuori per attaccare praticamente la barra per girare. Allucinante, è troppo bella. Ecco, il cinque di cosa, come si chiama? Rimasto sulla luce la ripresa dei carri, c'è un amico mio che stava facendo, la presa una azionista e ti stanno mettendo le ali per fare il cane alle 12. Con Mattore, con la macchina Mattore, ti stanno messo le ali tipo un aereo o un Boeing stavano facendo, però era troppo l'angolo che passava nella via, non potevano cambiare progetto. Ecco, mi hanno fatto a Porto Torres, che mi hanno fatto una, l'ho preso così, però era troppo alta e toccava i pali, i cavi dell'alta tensione, quindi l'hanno effettuare, capito? Questo c'è la nostra, non sono 10, ma lui non è solo, sta quattro che non si fa attacco. Allora nostra lui ha lavorato 6 metri e 20 in tutto, tutti e due a forza. Ma dove sta la passata l'ultimo? Se la sala rosso, no, non si passano, si passano, loro non hanno fatto la curva, sto cavolo, alla fine hanno detto tu, l'hanno bloccato il progetto. Sì, guarda, gappa, lui ha. Fa quello di corso, la mamma va nella ali più piccola. Ma Luca non si è sentito. Ma Luca sta lavorando. La barca che doveva fare, non capisco. Allora, guarda, datemi un minuto di stand-by. Non ha quella che ha detto l'elemento no, ce l'hanno chiusa, è perfetto, però non accendo. L'ho aperto, è tutto disintegrato, ecco. Basta, Mario, prendo l'appuntamento e intanto spreco le medico, eccetera. Poi se riesco a farla entro questa settimana, va bene, se no il giorno che devo farla chiederò mezza mattinata di permesso, pazienza. Ecco, appagappa. Se no è un macello. No, perché è meglio che ne approfitti per te, perché viene prima di tutto e la tua salute è clara. A te nel baracchino può aspettare, però la salute è meglio che ci dai da fare. A chi dice se sei andato, la buona torna più, Si conferma, infatti. Si conferma, è proprio così. E Roberto è andato. Roberto si stava preparando per andare a lavorare. Ha detto di salutarti, credevo che l'avevi sentito. Il segnale più basso, capito? E quindi poi di turbare il radio e allora mi sono portato dalla tua parte, non ho sentito quando è andato via, capito? E KK ha detto che se c'è ti chiama, altrimenti a domani mattina. E niente, lui si stava preparando per andare giù in officina. Erano già le 2:10, mi sembra che mi ha detto. E io ho detto meno un quarto devo partire lo stesso. Cappa. Allora, bisogna andare anche quello da fare. Soprattutto quello è da fare, qua, anche se non ho preso di là. No. Soprattutto quello è da fare, ovviamente ci sono su di no. Cappa. E per fortuna che c'è qualche cosa che si muove di tanto in tanto qua, se no sarebbe stato un macello. Io non capisco molta gente come fa, tu li vedi, cavolo, sta sempre nel circolo aspettando che gli offra da bere uno e l'altro, io se non faccio ricordare che non c'è da casa a chi non c'è la vagogna, se ne sta pure un amico e non lo vuoi subito, ma così io avremmo pigliato una birra, un caffè. Mamma mia, io guarda, vivo nel terrore se fossi stato in quelle condizioni, vivo nel terrore perché non avere soldi in tasca per me è come se buttassi una bicchiera a faccia. Io non è che non esco, però diciamo se c'è soldi in tasca esco volentieri perché non ho paura, entro via quello, dici beh io andiamo, ci mangiamo una pizza, una cosa. Ci prendiamo un aperitivo come capita con gli amici, ma se non vai in bussacca non riesci a casa, chi cazzo da te prega che non vai brutti figuri. E sai quanta gente c'è come stai dicendo tu che si chiude al bar e aspetta che qualcuno le offra la bere, capito? Magari la tempo che non ti vuole, oh ciao carissimo come stai qui là, cazzo già mai la compassione, ma che la stai bevendo, dai, sto, capito? È un bel KK, c'è qualcuno che voleva riprendere un attimo? Guardi. Sai cosa bisogna dire quando c'è il re degli scrocconi? Sì, farli mettere da bere al banco e poi pagarlo. Ma non è così, no, è messo. C'è molta crisi, però io non ho la faccia. E come me ce ne sono tanti che preferiscono starsene a casa tranquilli e beati. E niente, capito? Mentre c'è quello che va lì e dice così, passa qualcuno, magari trovo qualche cosa da fare e poi viene l'amico che lo offre da bere. E così ce ne sono tanti. Però io per esempio non ne ho faccia di uscire di casa se non c'è i soldi in tasca, capito? Perché trovi un amico e giustamente non devi aspettare che te lo dica lui, ma glielo dici tu, oh ciao bella, io abbiamo messo una cosa e tutto finisce lì, capito? Però se non c'è il quadrino in tasca e trovi l'amico che cosa è, ciao, sono in fretta, è brutto, capito? E così facevano con me, alla fine sai cosa gli ho fatto io ad Alghero? Sì, vabbè, beviamo, gli ho detto così. Cosa bevi? Cos'hai? Poi alla fine le ho detto di pagare al padrone del locale. Lui ha detto di offrire da bere, lui ha offerto e lui paga. capito. È così che bisogna, qualche volta, non sempre, ma qualche volta bisogna guardare anche il prossimo. Ehi, come lo facevano di vita, no? Io ci ho lasciato un sacco di milioni, poi quando ho capito bene la situazione, allora anche io ho detto, così è. Quando gli dicevo, offrimi da bere, non c'ho manco una lira, sì. Poi se facevi un giro, offriva agli altri, capito? Ah, così è, allora che te lo do io, tu va a far riscosso. Automatico. tecnico perché l'imbarcare, quindi macchinista già una specializzazione, ma se sceglie il capitano, quindi il capitano un concorso che imbarca, poi in automatico arriva tutto il resto, perché una volta si è fuori a bordo la specializzazione te la prendi lì, capito? E la studiare c'è anche lì, c'è da studiare, da studiare, da studiare, capito? Tutto il resto, no, ma lo so, quelli bianchi, quelli neri. No, quelli bianchi. Sì, ma io ho detto di uscire. invece così, cambia, sì. Quindi devo arrivare a quella, a quel livello, boh. Ho detto che i ricci non sono aderenti, sono della Zinara. sì, mi ascolti? E adesso sì, benissimo. Siamo fermati da uno e un euro. Ah, sono ascolti lì allora. E io ti saluto adesso, ci sentiamo più avanti. Va bene, ciao, ciao. Ciao, Claudio. Ciao, Marie, quanto è bello accogliere. Ci sentiamo domani. Si può anche procurare perché è più facile. poi non mi interessa proprio. No, no, ma non esiste. Scusi un attimino che la mia antenna ha rilevato una chiamata in lontananza. Attenzione, Fortunato, se mi ascolti, buongiorno, cambio passo. Ciao Fortunato, buongiorno, dalla città di Adara, ti ascolto forte e chiaro. C'è Rattino che parlava, evidentemente ti sovrappopolava, cambio passo. Mi ascolti bene lì a Adara, si accendono i lampioni qua dalla torre di controllo, cambio. Mamma mia, meno male Fortuna, allora siamo ancora attivi, segnale per te qua la mia stazione, segnale 5, radio 5, cambio. Non ci sono problemi, arrivi forte e chiaro, ti do la frutta Fortunato. Dietro di lui.